vertice di Berlino in Libia, il vertice di Berlino sulla Libia, c'è stato un primo accordo, un mezzo accordo, dipende da come la si vuole vedere. Comunque la tregua pare confermata, vedremo sul campo. L'Italia per conto suo ha fatto pressione sugli Stati Uniti chiedendo l'aiuto per un via libera alla missione ONU. Tra gli obiettivi di Roma, oltre a quelli petroliferi, c'è ovviamente la questione migratoria. Da quel fronte oggi si dovrebbe andare al voto per decidere se Salvini sarà a processo per la vicenda di Nave e Gregoretti. Lui chiede ai suoi di votare a favore. Anche qua si vedrà sul campo. Sul campo si sono viste invece le sardine, 40.000 secondo loro, a invadere Piazza 7 Agosto a Bologna, a una settimana dal voto in Emilia-Romagna. Di cosa si discute? Ancora di Sanremo, con la sorprendente scoperta che il rapper Junior Colli ha prodotto testi ampiamente discutibili. Dell'idea del sindaco di Milano Sala di vietare il fumo alle fermate di autobus e tram. Della figura di Bettino Craxi. Ieri facevano 20 anni dalla sua morte e la sua figura ancora divide. Ad Ammamet un migliaio di persone si è riunita per ricordarlo. È stato anche un fine settimana di sport, di calcio, senza grandi strappi, fatta eccezione per le milanesi. L'Inter frenata dal Lecce e un Milan che pare rinato. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Ed eccoci, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buon lunedì 20 gennaio, sono le 6:31 minuti e 40 secondi, in regia ci sono Carmelo Lauricella e c'è Giorgio De Luca in assistenza in redazione, come sempre, e come sempre vi aspetto al 349-238-6666. Per sms, messaggi, WhatsApp, anche audio. Ma cosa ho detto, ragazzi? Piazza 7 Agosto e Piazza 8 Agosto, ovviamente. Mamma mia, è proprio lunedì, eh. La pagina Facebook di 24 Mattino, dalla quale andiamo in diretta video. E poi il canale Instagram, il nostro account Twitter, l'email 24mattino@radio24.it. Sono stato un po' lento in questo periodo a rispondere all'email. Arrivo ragazzi, scusate. Ci sono tante cose, tante. Sembrano poche, ma sono tante. Dunque, iniziamo. Direi che le notizie del giorno arrivano da Berlino, da questo vertice nel quale Angela Merkel ha fatto da padrona di casa. E se volete una dimostrazione di come si siano complicate le cose, basta vedere le foto di gruppo, perché una foto di un vertice sulla Libia solo un anno fa avrebbe visto 4-5 persone intorno al tavolo. Ormai siamo nell'ordine della ventina. Erdogan, Putin, vari attori locali, i francesi, i tedeschi, ovviamente gli italiani, gli americani, i cinesi, i vertici europei, persino il Congo era rappresentato, oltre che ovviamente l'Egitto e l'Algeria e l'Unione Africana. Così ci siamo fatti un'idea della dimensione che ha assunto la questione libica, anche solo con una foto. Siamo soddisfatti, dice Giuseppe Conte, passi in avanti significativi. Si è appena conclusa la conferenza di Berlino, ci possiamo ritenere soddisfatti perché comunque abbiamo compiuto dei passi avanti. 55 punti condivisi che includono il cessate il fuoco, l'embargo condiviso per quanto riguarda nuove armi, un percorso politico istituzionale ben definito. È stato nominato anche il Comitato Militare Congiunto, che quindi veglierà e monitorerà che la tregua sia rispettata. Abbiamo dei passi avanti significativi. Cosa vuole l'Italia? Cosa vuole arrivare l'Italia? Beh, emerge abbastanza chiaramente a quella proposta iniziale di una missione delle Nazioni Unite, appunto, a guida italiana. E per questo, se vuoi una missione delle Nazioni Unite e la vuoi a guida italiana, la persona con cui interloquire, o meglio il paese con il quale interloquire, sono gli Stati Uniti. Dunque, Conte incontra Mike Pompeo e ne esce così. Sentiamo. Ha avuto una bilaterale con Pompeo, col segretario di Stato Pompeo. C'è assolutamente un'attenzione da parte americana per quanto riguarda questo dossier e soprattutto c'è un'attenzione anche da parte americana a coordinarsi con noi e con gli altri ovviamente soggetti coinvolti per lavorare ai seguiti. Una massima attenzione. I seguiti che insomma sarebbero i passi successivi, no, di questo vertice di Berlino che l'Italia, dice Conte, si dice pronta ad ospitare, dice che in Libia non devono entrare più armi e poi appunto c'è il tema di questa forza internazionale che dovrebbe controllare appunto l'embargo delle armi. Sentiamo Conte ancora. Questo accordo di oggi in 55 punti prevede, così si chiamano seguiti, quindi tante tappe successive, c'è da lavorare intensamente. Quel che è certo è che l'Italia, il ministro Di Maio, anzi qui è presente, lo ringrazio, abbiamo lavorato tutti tanto intensamente per preparare, per arrivare a sedersi intorno a un tavolo del genere, coinvolgendo tutti i componenti del Consiglio di sicurezza, tutti gli esponenti minimamente coinvolti nel dossier libico, trovare una convergenza su 55 punti vuol dire che c'è stato tanto lavoro e devo dire anche da parte dell'Italia, di tutti. Roberto Arditti, direttore di formiche.net, Agnese Pini, direttrice della Nazione. Roberto, Agnese, buongiorno, bentornati, ciao. Buongiorno. Eccovi qua, eccovi qua. Partirei da Roberto e poi andiamo su Agnese. Una prima valutazione da parte vostra. Allora, a me, mettiamola così, Haftar e Sarraj non hanno firmato questo accordo, perché poi no, l'abbiamo raccontata bene, abbiamo detto che sì, insomma, diciamo un risultato importante, l'embargo per le armi, il cessate il fuoco sul quale Sarraj e Haftar hanno concordato sul monitoraggio, però l'impressione è che le mani libere se le vogliano tenere. Roberto, che dici? Ma sì, anche diciamo sei magnanimo nell'utilizzo dei vocaboli. Mi sembra che la sintesi più efficace è nelle parole del ministro degli esteri russo, Lavrov, uomo di antica esperienza di vicende internazionali complesse, che ha detto piccoli passi avanti. Mi limito a una constatazione di carattere iconografico. I due protagonisti, per molti versi in negativo, di questa storia, cioè i leader libici delle due fazioni, non si sono presentati personalmente nella sala della conferenza, non hanno accettato di sedersi al tavolo con tutti gli altri e men che meno hanno accettato di mostrarsi al mondo in una fotografia, in una dichiarazione, insieme loro due. Se questi sono gli atteggiamenti dei due che dovrebbero fare la pace, è del tutto evidente, almeno a mio avviso, che la pace è molto lontana. Qualcuno comunque la guerra la prepara, forse Haftar, che è quello che ci è sembrato, cara Agnese, un po' più riluttante su questo fronte ad arrivare alla pace, prova ne sia no, la mancata firma dell'accordo in Russia. Sì, ma non solo la tregua è evidentemente fragilissima, in questa situazione si evince davvero in maniera chiara la marginalità ormai dell'Unione Europea in questa partita. Forse alla fine, volendo dare una lettura non ufficiale, ufficiosa, la vera sconfitta è proprio l'Unione Europea, in cui c'è ovviamente anche l'Italia, che però non è sola in questa nuova marginalità. È chiaro ormai che la partita sulla Libia è qualcosa che si giocano appunto Erdogan, la Turchia da un lato e la Russia di Putin dall'altro, e il ruolo dell'Unione Europea è apparso appunto un po' spompo, un po' moscio, che è intervenuto in maniera massiccia troppo tardi rispetto a una crisi che va avanti in realtà dal 2011, quindi sono ormai quasi 10 anni, e l'intervento tardivo dell'Unione Europea dimostra appunto la sua ormai fragilità sullo scacchiere internazionale, ha perso la centralità anche in un'area che è da sempre stata nostra, di italiani in primis e comunque europei. L'Europa è arrivata poco più di un anno fa su una partita in cui altri avevano già messo i propri uomini e le proprie armi, appunto soprattutto Russia e Turchia, ma abbiamo visto chi c'era seduto a quel tavolo, c'erano seduti anche la Cina, anche gli Stati Uniti, quindi tutti questi nuovi giganti che dominano una scena internazionale da cui l'Europa è sostanzialmente tagliata fuori, ce ne siamo già accorti in altre partite dai dazi in poi, e questa è l'ennesima dimostrazione. Sì, e forse la dimostrazione più forte è proprio perché siamo appunto sui nostri confini sostanzialmente, no? Qua forse possiamo anche sentire esattamente forse possiamo sentire qua la voce di Angela Merkel, insomma, sentirne solo un piccolo passaggio, la quale dice, vai Carmelo, vai, che insomma European Commission, the European Council. Dice, insomma, in sostanza siamo concordi su una soluzione politica, e però, insomma, lo stato dell'arte è quello che vediamo. Vedremo cosa succederà sul campo, perché Haftar ha dato chiaramente qualche segnale di non essere, insomma, di non aver voglia di stare tanto imbrigliato. Insomma, il blocco dei pozzi petroliferi dei giorni scorsi ne è stato un segnale, il continuo assedio a Tripoli, che nella sostanza prosegue, da quel che sappiamo ovviamente sul campo. Anche il blocco dei pozzi, per quanto lo sappiamo. E alla fine voglio solo ricordare che il, come è banale osservare, ma ricordiamocelo, la Libia esiste dal punto di vista geopolitico ed economico esclusivamente per i suoi pozzi di petrolio e di gas, che sono la Libia e che rappresentano pressoché la totalità del bilancio della nazione, ammesso che ancora possiamo considerarla tale, visto che i centri di comando sono in realtà anche molto più di due. Ma tutto è pagato, lo ricordava l'amministratore delegato dell'Ente Nazionale Petrolifero, che è ancora formalmente uno, compresa la pensione di militare di Haftar, è pagata con i proventi del dividendo del gas e del petrolio. E quindi là siamo, la grande partita è quella. Vediamo come evolverà. Abbiamo raccontato dell'avanzata di Haftar, di come Haftar abbia preso delle posizioni strategiche esattamente da questo punto di vista. Vi voglio portare all'Italia e andiamo. La giornata di ieri è stata un po' caratterizzata da questa manifestazione in Piazza delle Sardine, con questo Santori che ormai si sta prendendo la scena, se l'era già presa tutto sommato, che prima era solo portavoce, ma insomma sembra sempre un po' più il capo di queste sardine. E parla del populismo, della sconfitta politica del populismo, sentiamo. Ogni vittoria del populismo è una sconfitta per la politica, una sconfitta per chi prova e provando sbaglia, una sconfitta per chi fa politica senza barare. Una sconfitta per chi come noi pensa che la vita da cittadino sia qualcosa di complesso. La politica è un'arte, ma anche l'arte può diventare politica. Oggi attraverso l'arte abbiamo fatto politica. Ma sì, perché era una specie di concertone, una sorta di concertone del primo maggio in piccolo, quella la giornata di ieri delle sardine, con un po' di gente che cantava, un po' di gente che parlava. Il populismo ha già perso, dice Santori. E la notizia è che se continuiamo così il populismo ha già perso. Ci hanno lasciati soli per troppo tempo, ora siamo noi a dover lasciar sole loro da soli. Non 40.000 come al solito, insomma, sui numeri delle piazze non si sa mai esattamente quanti fossero. Intanto c'è riemerso il tema dell'attacco di Salvini a un rappresentante delle Sardine che ha un problema di dislessia, ha fatto un attacco sui social dicendo sentite come parla questo. Ieri in una curiosa intervista da Massimo Giletti, una curiosa intervista perché a Nonella Arena Salvini era a casa di una famiglia che infornava una pizza. E dice, ecco, è così, Carmelo Laurisella mi guarda, però insomma è così, insomma, le foto, ci sono anche le foto, lo potete vedere, c'è anche il video ovviamente. Dice, è stato un errore questo attacco, sentiamolo. Ecco, però a proposito di sardine, c'è stata una cosa non bella, no, che avete fatto, avete ridicolizzato l'intervento di una sardina, di questo ragazzo Sergio di 21 anni, che poi dopo, un secondo tempo... quello è stato tempo, un errore. Ecco, quello è stato un errore. Quello è stato un errore, anzi, un impegno che ci siamo presi sia in Emilia-Romagna che in Calabria, visto che abbiamo incontrato migliaia di famiglie in difficoltà, è di istituire un assessorato che si occupi di disabilità. Posto che la dislessia non è una disabilità, però insomma, traffico. Oh, e addirittura leggo adesso, mi capitano sotto, l'algoritmo di Twitter mi propone, chissà se ha sentito di cosa stavo parlando, mi propone una Paola Turci che dice Mattia Santori il miglior politico di questi anni. Allora, Agnese, che ti pare di queste sardine? Insomma, già hanno già stancato oppure no? E intanto hanno portato decine di migliaia di persone in piazza, siano 40.000 come dicono loro, siano 20.000 come dice la questura, fatto sta che la piazza piena era delle sardine e non del PD, e questa è già una fotografia, cioè le sardine sono un mondo di sinistra, parlano a un mondo di sinistra che poi è il PD come riferimento, un mondo di centrosinistra, ma a catalizzare l'animo popolare e a portarlo appunto in piazza come si faceva una volta non è più il partito, ma è questo movimento che dai partiti prende le distanze, perché comunque le sardine, per quanto ormai abbiano contatti diretti, più o meno diretti con il Partito Democratico, continuano a voler tenere lontane le bandiere della politica. Anche ieri Santori parla del contro l'antipolitica, però i primi a precisare di non voler avere nulla a che fare con i partiti e con la politica sono proprio loro. Questa è un po' una contraddizione dei nostri tempi. È una riflessione però da fare anche in chiave elettorale, cioè che tipo di voti e in quale direzione questi voti verranno catalizzati poi il 26 gennaio, quando ci sarà la prova delle urne in Emilia. Questo è ancora difficile capirlo, perché appunto è vero che le sardine sono un movimento di sinistra, quindi in chiave antisalviniana, ma non sono un pacchetto elettorale per il PD. Sì, bisogna vedere se saranno voti a tutti gli effetti. Oh, un ascoltatore scrive, perché poi ogni tanto manca la mattina qualcuno così, mi dice sei scandaloso, però ragazzi io vi chiedo per favore, date delle indicazioni di sostanza, perché sennò non è impossibile rispondere alle critiche se la critica è sei scandaloso, che è una cosa che è prima, visto che abbiamo parlato di politica da una parte e dall'altra, abbiamo un po' scherzato sulle sardine, un po' su Salvini che sbaglia, definisce la dislessia una disabilità, e quindi da una parte e dall'altra non sappiamo per cosa esattamente ci dobbiamo considerare scandalosi. Roberto, questo fenomeno delle sardine secondo te è destinato a durare o, diciamo, passata sta settimana di Emilia Romagna si sgonfia? No, il tema esiste e secondo me non è destinato a sgonfiarsi. Faccio solo una riflessione sul risultato, anche perché tanto ormai mancano 5-6 giorni per sapere quale sarà, tanto vale che attendiamo domenica, anche se il solo fatto di essere noi qui lunedì a 6 giorni dal voto, nella consapevolezza che l'esito per l'Emilia Romagna non è scontato, è già una grandissima novità della politica italiana, perché vorrei ricordare che mai nella storia del voto per la regione Emilia-Romagna l'esito è stato incerto a pochi giorni dal voto, perché la vittoria della sinistra è sempre stata data per evidente e un dato acquisito da tutti. Le sardine, se dovesse vincere, rivincere il governatore uscente Bonaccini, le sardine anche dopo la manifestazione di ieri avranno tutti gli elementi per dire è ampiamente anche merito nostro, e quindi la maggioranza di governo si troverà a dover convivere con un nuovo partner di governo. Se invece dovesse accadere il contrario, prendo a prestito le parole del capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Del Rio, oggi in una bella intervista al Corriere della Sera, Del Rio dice: penso che vinceremo noi, ma se non dovesse accadere ci saranno conseguenze. Beh, non è poco per quello che insieme a Franceschini è il più importante esponente emiliano romagnolo del Partito Democratico. Sì, in effetti. Oh, poi c'è tutta la vicenda di nave Gregoretti, lo ricordiamo, quella nave tenuta al largo delle coste italiane per 5 giorni da un ordine del Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, una nave militare con tribunale, se non vado errato, di Trapani. Aveva chiesto l'archiviazione per Salvini, accusato appunto di sequestro di persona. Il Tribunale dei Ministri invece ha deciso di procedere, dunque oggi si andrà al voto parlamentare per decidere se mandare appunto Salvini a processo oppure no. Salvini che ieri ha detto: ci voglio andare a processo, perché anche ovviamente è uno strumento di battaglia politica, evidentemente, no? E ha detto: basta, usciamo dalle ipocrisie, i miei uomini, i leghisti, votino a favore del processo per nave Gregoretti. Sentiamolo. Ora, siccome io non mi sento un criminale ma una persona per bene, il PD ha detto Salvini deve andare a processo perché ha bloccato gli sbarchi, bene, mandatemi a processo. Perché la mia nonna mi ha insegnato con un principio: male non fare, paura non avere. Io penso che tutti gli italiani mi abbiano pagato lo stipendio per difendere i confini del mio paese. Io ho semplicemente difeso i confini del mio paese. Se qualcuno mi vuole processare e mandare in galera, voglio vederlo in faccia. Ultimo polemicone del giorno. Oh, ma che scoperta! Junior Colli, il rapper che andrà a Sanremo, ha scritto delle canzoni con dei testi molto duri. Ma pensa, curioso. Uno di questi è Streghe, per esempio. Ero parecchi, Malibu, limone a spicchi. Si fanno le storie con 40 fighe, ma poi arrivo io, quindi tu non fichi. Dentro il gioco, chiappe strette, amici rapper, solo marchette. Voglio vedere la vostra faccia sopra i pacchetti delle sigarette. Sì, li ho scesi tutti quanti. E vabbè, no, tutti dicono: ah, testi sessisti. Cioè, questo Sanremo, cara Agnese, come dire. È chiaro che se un po' di polemicone ci sta, perché poi serve allo stesso Sanremo a sopravvivere, perché è necessario. Non so quanto tutta questa roba sia vera o sia montata, però insomma, comunque un pochino se ne parla, è inevitabile che se ne parli. Adesso tutti contro Junior Colli, la scoperta che è incredibile, scriveva dei testi sessisti e duri. Ma c'è una cosa che per fortuna, a costa di essere banali, Sanremo è lo specchio del paese, no? Nel bene e nel male sempre, e quindi anche le polemiche riflettono quello che è caldo nel nostro paese a livello di dibattiti e polemiche sul momento. E quest'anno si parla molto di donne, donne che sono state trattate un po' così da Amadeus, la canzone sessista del rapper, e senza scendere nel merito del testo della canzone, perché poi comunque le canzoni tali restano e vanno interpretate come canzoni, quindi come come i telefilm. Se non dovremmo fare i film sulla mafia, cioè torniamo sulla vecchia polemica, la vecchia diatriba per cui ci sono delle cose che istigano a commettere dei reati, ma poi vediamo che così non è, non sono certamente i telefilm o i film o i videogiochi. Però è bene che si parli molto di questo tema, perché significa che per la prima volta è sentito in maniera forte dal paese, se ne parla a Sanremo. Quindi è comunque una cosa positiva. Allora, noi andiamo in chiusura. Mi limito a ricordare agli ascoltatori che quando nel 1982 Vasco Rossi partecipò con Vita Spericolata a Sanremo, aveva già scritto Colpa d'Alfredo. Ve li ricordate i primi versi di Colpa d'Alfredo? Guardate, non ve li ricordo, non abbiamo il tempo di farveli sentire, non li abbiamo pescati, ma forse qualcuno ce l'ha in mente. Grazie Roberto Arditti, grazie Agnese Pini. Una pausa, c'è GR24 ovviamente. Ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.